gli altri libri dell'Antico Testamento. Al punto 287 del Catechismo della Chiesa Cattolica si dice: «La verità della creazione è tanto importante per l'intera vita umana che Dio, nella sua tenerezza, ha voluto rivelare al suo popolo tutto ciò che al riguardo è necessario conoscere. Al di là della conoscenza naturale che ogni uomo può avere del Creatore, Atti 17:24-29, Romani 1:19-20, Dio ha progressivamente rivelato a Israele il mistero della creazione. Egli, che ha scelto i patriarchi, che ha fatto uscire Israele dall'Egitto e che, eleggendo Israele, l'ha creato e formato, Isaia 43:1, si rivela come colui al quale appartengono tutti i popoli della terra e l'intera terra, come colui che solo ha fatto cielo e terra, Salmi 115:15, 124:8, 134:3. L'uomo è costantemente esposto alla tentazione di esigere da Dio una salvezza immediata, a misura delle proprie aspettative, e non comprende i suoi apparenti ritardi. Invece Dio salva l'uomo attraverso la storia, e questa lentezza o pazienza fa percepire la tenerezza e l'amore per la libertà, il rispetto e la serietà del dono. Così egli si rivela a poco come colui al quale appartengono tutti i popoli e la terra stessa, perché lui ha fatto cieli e terra. E tutto questo si vede nella storia, per cui bisogna tornare alla storia per capire l'origine, leggerla, narrarla. Egli è il Signore della storia proprio perché è il Creatore e quindi ha tempo. Per lui mille anni sono come un giorno e un giorno come mille anni. Salmo 94 e 2 Pietro 3:8. Così, durante l'Esodo, Dio si rivela come Salvatore del popolo. Gli ebrei vengono liberati dalla schiavitù, comprendendo proprio per questo che Dio è Creatore. La storia è essenziale perché Dio non si incontra nell'armonia e nella regolarità della natura, ma in eventi straordinari come la traversata del Mar Rosso, il dono della manna e la presenza sotto forma di colonna di fuoco e di nube luminosa. Il potere di Dio su tutte le cose fonda questa possibilità di venire incontro all'uomo con lo straordinario nell'ordinario. Dio si rivela nell'eccezione, nel superamento delle leggi di natura. Ma si dà una differenza essenziale rispetto alla magia e ai miti. Anche se la forma può rimanere simile, a livello di contenuto non si tratta di una rottura delle leggi, ma del loro superamento attraverso le leggi stesse. Lo straordinario avviene così in modo ordinario e naturale. Eppure, alla luce del progresso della rivelazione, in questa fase si possono ancora scorgere dei limiti rispetto alla pienezza che è stata donata solo in Cristo. Si nota che si è ancora ad un livello incipiente della fede nel Dio Creatore, poiché ripetutamente si presenta il confronto di Dio con gli altri dei. Dio è proclamato superiore perché fa meglio degli altri, come si vede con l'episodio di Elia e l'offerta sacrificale a Baal. Primo Re 18:22. Egli non appare ancora con chiarezza assoluta, unico e creatore di ogni cosa dal nulla. Sembra di essere di fronte a un limite qualitativo e che la grandezza sia principalmente quantitativa, come se non si toccasse ancora la profondità ontologica contenuta nella verità della creazione. Ciò si riflette anche nella mancanza di universalismo. Gli israeliti sono convinti che Dio agisca solo per loro. Con i profeti si progredisce ulteriormente. In particolare sono interessanti Isaia e Geremia. La loro predicazione abbraccia i 200 anni che precedono e includono l'esilio a Babilonia che ebbe luogo nel VI secolo avanti Cristo. Essi continuano ad affermare la grandezza di Dio che, come ha salvato in passato, salverà ancora. Poiché il suo potere è senza limiti, anche la fiducia dell'uomo in lui deve essere tale. Durante l'esilio babilonese è probabile che gli ebrei abbiano conosciuto il mito del Enuma Elish, narrazione persiana dell'origine del mondo. Così essi sono obbligati a ripensare la loro storia. L'apparente impotenza di Dio di fronte al male li spinge ad approfondire la dottrina della creazione. Proprio perché Dio è creatore del cielo e della terra, e proprio perché il cielo e la terra sono buoni, egli può salvare. Dio è buono e salvatore, e prova ne è il fatto che è autore della creazione con la quale aveva avuto inizio l'alleanza. L'insuccesso e la crisi li obbligano ad approfondire il pensiero che non può più rimanere in superficie. Si dilata il concetto di alleanza, che non viene più limitata all'aspetto materiale, ed emerge l'idea di un unico disegno divino. Nella seconda parte di Isaia, capitoli 40-51, si parla molto di consolazione e di creazione. Appare il verbo bara spesso, e i temi della salvezza e del principio si intrecciano costantemente. Isaia 42-5-6, 44-24-28, 45-8, 52. Gli stessi motivi appaiono in Geremia, Geremia 32-17, 33-25. L'alleanza è solida come la creazione. Così dice il Signore che ha fissato il sole come luce del giorno, la luna e le stelle come luce della notte, che solleva il mare e ne fa mugghiare le onde, e il cui nome è Signore degli eserciti. Quando verranno meno queste leggi dinanzi a me, dice il Signore, allora anche la progenie di Israele cesserà di essere un popolo davanti a me. Geremia 31, 35, 36. Il tema della creazione si dà praticamente per scontato nei testi profetici. L'approccio è religioso, non scientifico, né strettamente metafisico. Non interessa la cosmogonia, come avviene nel pensiero greco, tutto incentrato sulla ricerca dell'archè. Si tratta invece di una teologia che lascia le conseguenze culturali e cosmologiche all'elaborazione successiva, in particolare sapienziale. Rispetto all'Esodo si dà un grande approfondimento. La percezione della propria impotenza porta a prendere maggiore coscienza della potenza di Dio. In Egitto gli ebrei non avevano provato un annientamento simile a quello dell'esilio. Qui percepiscono che Dio per loro è tutto e che quindi devono tornare all'origine, al Creatore. Cresce così la percezione della portata universale del potere salvifico e creatore di Dio. Egli si può servire anche dei re stranieri e il suo dominio si estende fino a Babilonia proprio perché ha creato ogni cosa. In questo modo la prospettiva storica e l'attesa della consolazione donano alla visione profetica della creazione un respiro escatologico. Il passo successivo è realizzato nel contesto della letteratura sapienziale, che è particolarmente importante per la dottrina della creazione e per la comprensione del rapporto tra Dio e il mondo. Tutta la creazione viene ora identificata con il cosmo, cioè con la totalità unificata di tutte le cose reali, opera della sapienza divina. L'onnipotenza di Dio non è letta più solo negli eventi straordinari, ma anche nel fatto che Dio è il creatore di un cosmo unico e unitario, che possiede una sua razionalità, un suo senso, logos. Si insiste sulla grandezza e sulla bellezza permanente, oggettiva del mondo. Si concentra l'attenzione sull'intelligibilità e la finalità intrinseca del mondo, sul senso, sulla logica. Non si tratta di un mero naturalismo, come nelle religioni pagane, ma di un nuovo accento cosmologico della stessa dottrina precedente. Nei Salmi, ad esempio, si vede che i frequenti accenni alla creazione compaiono sempre in un contesto dossologico, cioè di lode a Dio. Il Salmo 136, ad esempio, associa la liberazione di Israele alla creazione, iniziando con il versetto «Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia». Il Salmo 148 e il Salmo 104 uniscono senza soluzione di continuità creazione e storia della salvezza, ripercorrendo le tappe della narrazione sacerdotale della Genesi. Il Salmo 33 e il Salmo 8, in particolare, comparano la piccolezza dell'uomo al creato, per poi affermare la sua superiorità su ogni cosa. Particolarmente importante è il capitolo 8 del libro dei Proverbi, dove si parla della sapienza di Dio che ha fatto ogni cosa. Proverbi 8, 30, 31. Si ribadisce in questo contesto che la creazione non parte da una materia preesistente, 8, 24, e si conclude affermando che non basta la pura speculazione, ma bisogna vivere secondo la sapienza. Questa, nell'interpretazione successiva, verrà connessa sia al Verbo che allo Spirito, indicando in un certo senso la presenza di Dio nella storia e nel mondo. Ciò è importante perché la logicità del mondo non è presentata come possesso, ma come dono all'uomo. Fondamentale è l'idea di mistero. Il creato è un mistero non in senso gnoseologico, come avviene per un indovinello o per le parole crociate, ma in senso ontologico, in quanto ha una profondità che eccede le capacità conoscitive dell'uomo. Si tratta dello stesso tipo di mistero costituito dalla persona umana e dalla sua interiorità. La sapienza parla di questo mistero. Ci sono molte cose nascoste più grandi di queste. Noi contempliamo solo poche delle sue opere. Siracide 43:32. Ecco, questi non sono che i margini delle sue opere. Quanto lieve è il sussurro che noi ne percepiamo. Giobbe 26:14. Anche Sapienza 9:14-16, Qelet 3:11. Il senso del mondo non è banale, ma è mistero che rimanda al creatore trascendente. Il libro della Sapienza presenta una visione molto matura dottrinalmente, identificando nella depravazione morale la ragione per cui gli uomini non riescono ad arrivare a Dio, a partire dal creato. Tratta anche del tema della provvidenza e mostra come la bellezza della creazione sia opera della sapienza, figura personificata che collega l'immanenza divina, sorgente del disegno e della bontà, con la storia. Questa figura svolgerà un ruolo estremamente importante nella successiva teologia del Logos, anche per i punti di contatto con la riflessione filosofica del tempo, e può essere pienamente compresa solo alla luce della mariologia e della cristologia. In questa fase, la dottrina della creazione viene approfondita sempre più, come è dimostrato dai frequenti richiami della Genesi nel contesto della letteratura sapienziale. Non si può parlare di naturalismo come per le religioni pagane, in quanto i motivi soteriologici continuano ad essere presenti. Si insiste con forza sulla dipendenza assoluta del creato da Dio, e si afferma l'incomprensibilità delle sue vie. In sintesi, si continua ad affermare in modo assoluto la trascendenza divina e semplicemente si traggono le conseguenze a livello cosmologico e universale della dottrina precedente. Si tratta dell'apice della dottrina veterotestamentaria sulla creazione. Il libro di Giobbe e il Qelet confermano questi dati, sottolineando come la sapienza divina non possa essere posseduta e controllata. L'atteggiamento proprio dell'uomo è, per questo, l'umiltà accompagnata dal pentimento. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono, perciò mi ricredo e ne provo pentimento su polvere e cenere. Giobbe 42:5-6. In questo contesto, la morte diventa la sintesi di tutto il male che l'uomo può sperimentare in terra. Ma nello stesso tempo in essa l'uomo scopre in negativo il senso più intimo della creazione, cioè il suo nulla costitutivo e la dipendenza radicale da Dio. I salmi detti mistici affrontano in modo particolare il tema della provvidenza, presentando il dolore dell'uomo di fronte al perdurare del male. Nel Salmo 37 si afferma con forza che Dio non abbandona mai l'uomo, e che alla fine la vittoria è di chi è fedele, mentre nel 39 emerge tutto il dolore e l'indignazione perché il male sembra vincere in apparenza. Ma in Salmo 73:21-24 si tocca un vero e proprio vertice dell'abbandono. Quando era amareggiato il mio cuore e i miei reni trafitti dal dolore, io ero insensato e non capivo. Stavo davanti a te come una bestia, ma io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai secondo i tuoi disegni e poi mi accoglierai nella gloria. Lo stesso si ripete nel settimo capitolo del secondo libro dei Maccabei, nel quale una madre ebrea, dopo aver visto morire i primi sei dei suoi sette figli, incoraggia l'ultimo a non sottrarsi al martirio e a non cedere alle minacce dei funzionari del re Antioco Epifane, parlando il proprio idioma d'origine, cioè nella lingua paterna, come significativamente dice il testo, verso 21, gli dice: «Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia», secondo Maccabei 7:27-29. In questo bellissimo passo è esplicita l'affermazione della creazione dal nulla, non da cose preesistenti, che fonda la fedeltà dell'uomo nella corrispondenza tra fine e principio. Si ha fede non nella creazione, nelle creature, ma nel creatore. Si approfondisce sempre più la dimensione del dono e della relazione costitutiva con Dio. La pietà è sempre più essenziale, in quanto solo nel rapporto con Dio si trova la propria identità e la propria salvezza. Il problema della morte e del male, insieme al mistero della provvidenza, vengono ricollegati a quella corrispondenza di principio e fine che sarà rivelata in Cristo morto e risorto e nella sua filiazione. La madre ha particolare coscienza del fatto che la vita del figlio è sorta in sé per il dono di Dio, che l'origine ultima non è lei, ma è il Creatore ad aver formato quella nuova carne nel suo seno. Questa coscienza è meravigliosamente connessa alla verità teologica della creazione dal nulla. Dio non ha usato una materia preesistente per fare ogni cosa, in modo tale che potrà restituire il figlio alla madre se questi rimane fedele al Creatore. Il nesso inscindibile tra creazione e salvezza appare qui in tutta la sua forza. In questo modo è messa anche in evidenza la struttura filiale del mondo e della storia, perché la madre dei Maccabei richiama contemporaneamente Abramo, che sacrifica Isacco fiducioso nel potere di Dio di restituire quello che ha promesso, e Maria, la madre di Gesù, che ai piedi della croce restituisce il figlio al padre. La fedeltà al Creatore e la purezza della fede nel suo potere vengono espresse nell'atto di ridonare il dono che è il figlio. In questo modo viene aperto il cammino al Nuovo Testamento e alla piena rivelazione del senso della creazione in colui che è figlio dell'uomo e figlio di Dio.